Capitolo 2. Gli amici nel bisogno. Quando Gertrude raggiunse la sua camera, si buttò sul letto e rimase lì immobile, nascondendo il volto dalla luce. Era stremata, povera ragazza, per la preoccupazione delle ultime settimane, un periodo in cui la vita sembrava essersi affollata di eventi, pensieri ed esperienze. Azioni o pensieri che riguardavano piani di azione, per il momento le erano diventati impraticabili. Realizzò con un segreto brivido d'orrore che alla fine era arrivato il momento di guardare dritta in faccia l'angoscia latente di cui nessuno, eccetto lei, conosceva l'esistenza, e che, nella morsa delle sofferenze più pressanti, era finora riuscita a tenere a bada sullo sfondo dei suoi pensieri. Era vagamente consapevole soltanto del fatto che avrebbe dovuto fronteggiarla presto o tardi ed essere avvenuta la sua ora. C'era qualcuno, legato a lei solo a parole, che aveva lasciato trascorrere i giorni delle sue sofferenze senza farsi sentire. Un amico delle Oregliette che era fuggito prima della tempesta. In queste poche parole è riassunta l'intera e banale storia di Gertrude. Solo alle nature così orgogliose e così appassionate come la sua le parole possono trasmettere il loro pieno significato. Non era una donna che veniva vinta facilmente, si arrendeva solo dopo un lungo assedio, ma la resa era complicata, incondizionata, come solo una tale donna può concedere. Ora sembrava essere scossa alle fondamenta, ferita nelle radici vitali, come solo una donna appassionata desidera, pensava. Se fosse stata sua la sventura, non mia. Nella sala c'era un bigliettino di carta con su scritto «Sentite condoglianze» e Gertrude non aveva mancato di apprendere da varie fonti della presenza dell'autore del biglietto a una mezza dozzina di balli e del suo progetto di un viaggio in India. Gertrude si alzò dal letto con un suono soffocato, che era quasi un grido nella gola. Aveva guardato onestamente negli occhi il suo problema e non aveva tentato, come qualche altra donna avrebbe fatto, di salvare l'orgoglio rifiutandosi di riconoscerne l'esistenza. Ma dalle profondità della sua umiliazione l'aveva chiamato con il suo nome. Ora si era voltata, l'aveva allontanato da sé per sempre e aveva allontanato altre cose, forse, a cui si era intrecciato. Ma lì, in piedi almeno, c'era una donna libera, pronta per l'azione. Grazie a Dio, pronta per l'azione. Per il decreto che aveva fatto di lei, in qualche misura, l'arbitro di altri destini, il sostegno e l'appoggio di altre vite. Per il momento aveva stretto al cuore e tenuto come un amico quel fardello di responsabilità che prima le era sembrato, e spesso le sarebbe sembrato in seguito, un carico troppo pesante, troppo crudele per le sue giovani forze. E adesso, disse impostando le labbra, liberiamocene. Il pavimento venne presto cosparso di un cumulo di fogli, per lo più manoscritti, il cui aspetto polveroso e malconcio avrebbe suggerito a un occhio esperto frequenti e infruttuose visite alla zona di Paternoster Row. Gertrude, inginocchiata sul pavimento, chinata su di loro con una faccia perplessa, ne metteva qualcuno da parte e ne consegnava altri spietatamente al cestino. Uno, più corposo e con l'aria di aver viaggiato più degli altri, lo teneva ogni tanto in mano, come se lo stesse pesando su una bilancia. Era etichettato Charlotte Corday, tragedia in 5 atti, e per qualche momento il suo destino sembrò incerto, ma infine trovò la sua strada nel cestino. Un colpetto deciso alla porta ridestò Gertrude da questa sua, in qualche modo, malinconica occupazione. Avanti! Esclamò, spingendo indietro le ciocche ribelli dell'ampio arco della fronte, ma rimanendo al suo posto fra i suoi manoscritti. La maniglia venne abbassata bruscamente e una giovane donna in fiore, vestita all'ultima moda, entrò nella stanza. Mia cara Gertrude, cosa succede? Rachele sta piangendo fra i suoi figli. Parlò a voce alta, ma con un tale esagerato slancio che rivelò una certa apprensione. L'ultimo incontro delle amiche era avvenuto nella camera mortuaria. Non era semplice, dopo aver vissuto un momento così solenne, riprendere le relazioni quotidiane della vita senza turbamenti o stridori. Entra, Connie, e se devi citare la Bibbia, non farlo in modo sbagliato. Constance Devonshire, incurante del suo magnifico abito, si gettò a terra accanto all'amica e l'abbracciò amorevolmente. I suoi vigili occhi blu caddero sul cestino traboccante di fogli. Gertie, cosa significa questa strage di innocenti? Vanità delle vanità, dice il predicatore, dal momento che sembri propensa alle allusioni alle scritture, Connie. Ma Gertie, tutti i tuoi racconti, le tue creazioni. Pensavo a Van Poe mentre lo suggeriva che avresti potuto venderli. E Charlotte Corday, persino. Povera Charlotte, è stata al mercato tanto spesso che non riesco a sopportare la sua vista. Ero le ho inferto il colpo di grazia come ha fatto la Repubblica con quella originale. Quanto alle altre vittime, sono solo degni di una lacrima e non ne discuteremo. Raccolsi i restanti manoscritti e li mise via in un cassetto, poi voltandosi verso l'amica con un sorriso, pretese un resoconto su di lei. La presenza della signorina Devonshire, ignara com'era del suo attuale stato d'animo, ebbe un effetto positivo su Gertrude. Sapeva di essere per Connie una vera roccaforte e una simile consapevolezza capace di renderci forti, almeno per il momento. Oh, non c'è nulla di nuovo per quel che mi riguarda, rispose Connie, corrugando il suo volto bello e scontento. Gertie, perché non venite da noi, tu e Lucy, e lascia andare le altre in India? Gertrude rise a quella sommaria sistemazione della famiglia. Di sicuro sapevo che non sareste venute, disse Connie con voce offesa, ma seriamente, Gertie? Cosa avete intenzione di fare? In poche parole, Gertrude accennò il piano che aveva proposto alle sorelle quella mattina. Non credo che sia possibile, disse la signorina Devonshire con prontezza. Ma suona davvero bene, aggiunse con un sospiro, e il pensiero forse alla propria noiosa ricchezza. Il campanello aveva suonato per il tè e Gertrude aveva iniziato a spazzolarsi i capelli. Constance tentò di prendere la spazzola dalle mani. Tu non verrai di sotto, mia cara. Proprio no, ti stenderai mentre io vado a prenderti il tè. Preferisco di no, Connie, sto abbastanza bene. Sei bianca come un fantasma, ma fai sempre a modo tuo. A proposito, Fred è di sotto, ha camminato con me da Queen's Gate. È la sola persona decentemente civile in casa, almeno per ora. Il tè venne servito nello studio, dove le due ragazze trovarono il resto della compagnia riunito. Fan, con aria elegante, come fosse consapevole di svolgere un compito essenzialmente femminile con un gran lavorio del dito mignolo, era impegnata a versare il tè. Nel centro della stanza era in piedi un gruppetto di tre persone: Lucy, Phyllis e Fred Devonshire, un giovane uomo alto e robusto, vestito in modo accurato e decoroso, con una faccia bianca e rosa, fatua e bonaria. Oh, andiamo, signorina Lucy, sentirono che diceva mentre Gertrude entrava con la sorella. È davvero troppo per bersela. Non ci crede? Esclamò Phyllis, storcendosi le mani e volgendo il viso incantevole alle nuove venute. È così? Non è vero, Gertrude? Avete spifferato i nostri segreti? Lucy e io abbiamo spiegato il piano a Fred e lui non ci vuole credere. Gertrude era un po' incontrariata per questa loro mancanza di riserbo, ma poi rifletté: se il piano doveva essere attuato, non poteva rimanere nessun segreto, specialmente con i Devonshire. Assicurato del fatto che c'era un fondo di verità in quelle parole, Frederick cadde in un silenzio stupito, rotto da occasionali risatine che si affrettava ogni volta a reprimere, considerandole fuori luogo in una casa segnata dal lutto. Da tempo considerava le ragazze Lorimer come il più sorprendente prodotto degli anni, ma quest'ultimo loro capriccio, come lui lo chiamava, onestamente gli aveva tolto il respiro. Era un giovane del cuore tenero, del resto, e il lato patetico della situazione gli si presentava con chiarezza negli intervalli del suo divertimento. Constance aveva portato un biglietto da parte di sua madre e, dovendolo consegnare, avendo preso il tè, si era alzata per congedarsi. Fred era ancora perso nei suoi pensieri e a intervalli borbottava a voce bassa: Per Giove! Mentre le risatine andavano esaurendosi. Andiamo, Fred! Lo rimbrottò la sorella. Lui scattò in piedi. Vi state lentamente riprendendo dallo sconcerto che vi abbiamo causato? Chiese Lucy pudicamente mentre tendeva la mano. Signorina Lucy, disse lui con tono solenne guardandola con il suo sguardo sciocco, verrò ogni giorno della settimana a farmi fotografare se posso e così ogni uomo al nostro servizio. Sebbene si fosse unito lui stesso alla risata, ci rimase male e di stucco quando tutte scoppiarono a ridere, persino Lucy, alla quale si era rivolto come alla meno stravagante e più affidabile delle signorine Lorimer. Gertrude camminò lungo il viale con i due fratelli, una sbiadita, malinconica figura sospinta dal vento accanto alla loro radiosa eleganza, e le accompagnò fino al grande cancello. Qui indugiò un momento, mentre la brezza le sollevava i capelli e le accarezzava il viso, tingendo di una debole sfumatura di rosso il suo pallore. Phyllis e Lucy aprirono la porta dello studio che dava sul giardino e rimasero lì, abbracciate, cullate non meno di Gertrude dalla fresca dolcezza del pomeriggio di aprile. Il rumore delle ruote di una carrozza le ridestò dalle fantasie in cui entrambe erano cadute. Un istante dopo videro un carrozzino chiuso, trainato da due cavalli, seguire la curva del viale e fare rotta verso la casa. Le due ragazze si ritrassero in fretta, chiudendo la porta dietro di loro. Santo cielo, zia Caroline! Disse Lucy in preda allo sgomento. Deve aver superato Gertrude al cancello. Fanny, hai sentito chi c'è? Kettle? Dobbiamo prendere il tè nella sala da pranzo, disse Fanny. Sai che alla signora Pretta non piace lo studio. Philly stava sbirciando dai vetri della porta che permetteva la vista dell'entrata di casa. Sta uscendo ora. Il valletto ha aperto lo sportello della carrozza e Kittel è sulle scale. Oh, Lucy, se zia Caroline fosse stata un cavallo, come sarebbe stata dura di bocca. Pochi istanti dopo udirono un gran fruscio di vesti e una voce dal suono metallico nel salotto che confinava con la serra. E Kittel, apparendo sull'ingresso che divideva le due stanze, annunciò lugubremente: La signora Septimus Pratt. Una donna alta e spigolosa, pesantemente coperta dei più impeccabili e appariscenti abiti da lutto, sedeva dritta sul divano quando le ragazze fecero il loro ingresso in salotto. Era una persona di bell'aspetto per la sua età, nonostante una forma del volto leggermente equina e l'assenza nei tratti di qualcosa che fosse degno degli aggettivi grazioso o simpatique. La signora Septimus Pratt apparteneva a quella dannosa classe della comunità che fa prevalere volontà e potere su intelletto e sensibilità. Aveva un'anima volgare, una mente gretta e una fiducia sconfinata nei propri giudizi. Ma non era cattiva di cuore e in quel momento era mossa dal sincero desiderio di fare del bene alle nipoti. Come state, ragazze? Disse parlando con quella tonalità forte e autoritaria che molte persone caritatevoli del suo sesso pensano sia giusto usare quando fanno visita ai vicini più poveri. Sì, per cortesia, Fanny, una tazza di tè e un po' di pane burro. Dolce? No, grazie. Non mi aspettavo di trovare il dolce. L'ultima frase, pronunciata con malizia ponderosa, come per togliere il mordente a un implicito rimprovero, venne accolta in un silenzio inespressivo. Anche Fanny mandò giù in tempo una rimostranza che le era affiorata alle labbra. Con un tuffo al cuore, Lucy sentì girare la maniglia della porta e vide Gertrude entrare, pallida, rigida e scostante. «Come stai, Gertie?» esclamò zia Caroline. «Credo che questo non sia il nostro primo incontro. Per quale motivo ti trovavi al cancello senza il tuo cappellino e con quell'abito logoro?» Gertrude infatti indossava un vecchio abito nero dal momento che aveva tolto la nuova veste da lutto prima di mettere in ordine le carte impolverate. Dovete perdonarmi, zia Caroline. Si può dire che l'opposizione fra queste due donne risalisse al tempo in cui una delle due era nella culla. Dovresti saperlo alla tua età, Gertrude, continuò la signora Pratt, che ora più che mai è necessario che tu stia attenta alla tua condotta. E fra le altre cose, nessuna di voi può permettersi di mostrarsi trasandata. La signora Septimus parlava, bisogna ammetterlo, con notevole ipocrisia. Aveva realmente buone intenzioni verso le nipoti, come dicevo prima, ma allo stesso tempo era un essere umano e il fatto che le circostanze le avrebbero dovuto concedere, come immaginava, il diritto di parlare con autorità a quelle fanciulle indipendenti, era un'occasione da non disprezzare. Gertrude, una volta discutendo di lei, aveva affermato che era una persona senza rispetto e che difatti la riverenza per l'umanità come tale non poteva essere annoverata fra le sue virtù. Ci fu una pausa dopo quella sua ultima osservazione e poi, davanti alla sorpresa e alla costernazione generale, Fanny si gettò nella breccia. Signora Pratt, disse con veemenza, siamo povere, non ci vergogniamo che si venga a saperlo. Non è nulla di cui vergognarsi e Gertrude è l'ultima persona che può fare qualcosa di sbagliato e credo che voi lo sappiate bene quanto me. L'eroismo della povera Fan venne meno all'improvviso quando incrociò gli occhi grigio acciaio della signora Pratt fissi su di lei per lo stupore. Qualunque forma di opposizione la scioccava in modo sempre indicibile. La percepiva realmente come una sorta di sacrilegio, ma Frances Lorimer era una così tale povera creatura che non si poteva far altro che compatirla, sottomessa com'era dalle sorelle più giovani. Fanny è nel giusto, disse Gertrude facendosi coraggio per parlare. Siamo veramente povere. Dunque sapete con esattezza in quali condizioni vi trovate? Continuò zia Caroline, che fece valere tutti i diritti della stretta parentela nel formulare la domanda. Come Con esattezza non si sa ancora, rispose Lucy frettolosamente, ma il signor Devonshire e l'avvocato di nostro padre, e pensavo lo zio Septimus, saranno in grado di approfondire dopo la vendita. Così mi dice vostro zio. Dice anche che non ci sarà che poco niente per voi ragazze. Avete cominciato a pensare a cosa farete? Chi di voi andrà da Sebastian Lorimer? Ho sentito che hanno mandato un telegramma per due di voi. Direi che sarebbe meglio andassero Fanny e Phyllis, le altre sono più capaci di badare a loro stesse. Silenzio, ma per nulla turbata. Zia Caroline andò avanti. È un peccato che nessuno di voi abbia marito. Le ragazze non sembrano sposarsi al giorno d'oggi, disse con un certo compiacimento. Difatti, le figlie di casa Pratt, ben disciplinate e munite di una buona dote, avevano l'abitudine di andare via a tempo debito, ma l'India a volte fa miracoli in tal senso. Permettetemi di andare in India, Gertie, esclamò Phyllis in un tono udibilissimo, mentre Gertrude chinò la testa e si morse le labbra, frenando il desiderio di ridere istericamente che l'ingenuità dell'ultimo commento di sua zia aveva provocato. Dunque, Gertrude e Lucy, continuò l'oratrice, sono autorizzata da vostro zio, povero Septimus, a offrirvi una casa per tutto il tempo che vorrete, come dimora stabile o fino a quando non avrete trovato delle occupazioni appropriate. Noi siamo in India, Fan, e questa è la ragione per cui non veniamo menzionate, mormorò Phyllis impertinente. Zia Caroline, intervenne a un tratto Gertrude, alzando il capo e parlando con grande determinazione. Siete molto generosa e noi vi ringraziamo, ma progettiamo altre soluzioni. Mia cara Gertrude, altre soluzioni? E quali soluzioni, dimmi, ti prego, progettate? Fanny, Lucy, Phyllis, posso dirlo a zia Caroline? Tutte loro acconsentirono. Fanny, la cui volontà di unirsi a loro prima era parsa in dubbio, lo fece con una prontezza maggiore di tutte le altre. Pensiamo di aprire un'attività come fotografe. Gertrude gettò la bomba senza piacere. Per un momento vide se stessa e le sue sorelle come riflesse nella mente della signora Septimus Pratt, bambine disobbedienti, folli sognatrici. Zia Caroline si rifiutò di essere sconvolta e Gertrude sentì che la bomba era stata trasformata nel pallino di una cerbottana. Che stupidaggine! Disse la signora Pratt. Gertrude, mi chiedo se tu abbia perso il buon senso. E di fronte alle tue sorelle minori, per giunta. Ma il buon senso, proseguì con una sgradevole enfasi, non è mai stato una caratteristica di famiglia. Lucy, che se n'era rimasta silenziosa e guardinga durante l'ultima parte della discussione, se discussione poteva essere chiamata, in quell'istante si alzò in piedi. Zia Caroline, disse nella sua voce giovane e limpida, vorrete perdonarci se ci rifiutiamo di discutere ora la questione con voi? Non abbiamo deciso nulla, infatti, come potremo prendere decisioni? Gertrude ha scritto ieri a un vecchio amico di nostro padre, che ha la saggezza e l'esperienza che ci occorrono e al momento stiamo attendendo il suo consiglio. Io penso che siete una banda di ragazze capricciose e sciocche, esplose la signora Pratt, perdendo alla fine il controllo. E lo sa il cielo cosa ne sarà di voi. Siete le figlie della mia povera sorella e ho dei doveri nei vostri confronti. O me ne laverei le mani sin da questo istante di voi. Ma sarà vostro zio a parlarvi, forse a lui darete ascolto, anche se non c'è nulla da aggiungere. Si alzò dalla sedia, con una vampata violacea sul volto abitualmente cereo, e senza degnarsi di rispettare le formalità del commiato, uscì maestosamente dalla stanza, seguita da Lucy. Una bella liberazione, esclamò Fan, eppure era rossa ed eccitata, povera anima, per lo scontro. Lucy, di ritorno dall'aver accompagnato la zia alla carrozza, trovò Gertrude silenziosa, bianca e tremante di rabbia. Come si permette? Ansimò. È solo ridicola, rispose Lucy. Confesso che inizio a domandarmi se sono una mendicante maleducata, una lunatica o qualcosa di simile, visto il suo tono. Ha alzato a tal punto la voce, disse Gertrude, premendosi la mano sulla testa. Non mi sono mai sentita così etichettata e processata in vita mia, esclamò Phyllis. Questa è una miserabile. Sembrava ci fosse scritto su ogni mio indumento. Le risatine del povero Fred e quel suo per Giove erano molto più confortanti. Kittel entrò nella stanza con una lettera indirizzata alla signorina G. Lorimer. È da parte del signor Russell, disse lei esaminando il timbro postale e ruppe il sigillo con le dita ansiose. Il signor Russell era l'amico del padre, al quale si era rivolta per un parere il giorno prima. Gestiva un'importante attività fotografica di fama internazionale nel nord dell'Inghilterra. Per il disgusto della famiglia, che per diverse generazioni era rispettabilmente morta di fame con la cultura. La faccia espressiva di Gertrude si illuminava mentre leggeva la lettera. Il signor Russell è molto incoraggiante, disse, è molto disponibile. In questo momento sta venendo a Londra per parlare con noi e per esaminare il nostro lavoro e suggerisce anche che una di noi torni indietro con lui per imparare il mestiere, ma forse questo non sarà necessario. Ognuna di loro si impadronì della lettera tanto benevola e l'aria fu colma di lodi per chi l'aveva scritta. Persino Fanny si sbilanciò tanto da chiamarlo caro. Gertrude, che camminava su e giù per la stanza, si fermò tutta un tratto e disse: «Prendiamo qualche buona decisione». Sì, gridò Phyllis con la sua usuale schiettezza. Lastrichiamo un po' la strada per l'inferno. Primo, non saremo ciniche. La mozione fu approvata all'unanimità. Secondo, saremo felici. Questa mozione venne approvata con un entusiasmo anche maggiore della precedente. Terzo, propose Phyllis, che stava camminando dietro alla sorella, appoggiandole la sua testa nocciola sulla spalla e pronunciando le parole con finto pathos. Terzo, non diremo mai e poi mai che abbiamo visto giorni migliori. Così, con i visi sorridenti, si alzarono in piedi e sfidarono il destino.